Ben ritrovata Elisabetta Pandimiglio, Grazie, buonasera a tutti. coregista del documentario Sbagliate, che è in programmazione all'Apollo 11 a Roma l'8 marzo. Allora, Elisabetta, ce lo racconti? Sbagliate un viaggio, io lo chiamo un viaggio, un lungo viaggio, è un film che si interroga sulla scelta della maternità. Quindi, un film dove una serie di donne si riuniscono tra loro e si interrogano, non madri, c'è cioè solo una madre nel film, e si scambiano delle idee, delle confidenze sulla scelta o non scelta della maternità, quindi sul essere madre o no, per caso o per destino o per scelta. È un film che ha una genesi molto lunga, nasce dalla mia vita personale, sinceramente. Una quindicina di anni fa decido di fare un lavoro su questo tema, Sì. perché appunto era qualcosa che mi arrivando da un viaggio in Brasile mi rendo conto che è un tema che mi tocca molto profondamente, quindi provo a scrivere un soggetto e provo a cercare una produzione. Insomma, non ci riesco perché il tema non veniva riconosciuto come tema. Mi veniva detto, ma perché fare un lavoro su un qualcosa che è scontato? Uno può scegliere o non scegliere di essere madre, e mancava l'elemento drammaturgico. Passano degli anni e quindi io faccio una lunga ricerca e capisco che in Italia è un tema che non esiste, invisibile, ma in altre parti del mondo ci sono dei movimenti, in America, in Francia, in vari paesi d'Europa, interrogano su questo tema. Quindi poi abbandono l'idea di fare una finzione, perché all'inizio volevo fare una finzione, e decido di fare un documentario, e diventa un documentario con diversi punti di vista. Innanzitutto decido di condividerlo con Daria Menozzi, che è l'altra regista che ha fatto questo film insieme a me, insieme prepariamo tutta una serie di situazioni, mettiamo insieme delle donne, alcune si conoscono e altre no, e quindi le donne, le protagoniste sono comunque molto estive, perché è un film dove è importante la parola, è un film di parole, è un film di dialogo, di donne che si sentono al sicuro nel parlare di un qualcosa che fino a quel momento forse non si sono neanche chieste, perché comunque c'è un pregiudizio nel considerare una donna che in qualche modo sceglie di non avere figli. Esiste, anche se poi, appunto, dicevo, un lungo viaggio, perché è un film aperto nel tempo, le cose comunque sono cambiate. Il film è quindi iniziato nel 2004, nel 2009 abbiamo cominciato a parlarne con Darian, tra il 2009 e il 2010. Abbiamo girato tra il 2011 e il 2012, abbiamo finito di montare nel 2013 e ha visto la luce al Biografilm nel 2015, quindi sono passati tanti anni e in qualche modo secondo me c'è un cambiamento rispetto a questo, un cambiamento rispetto alla mentalità, anche se la mentalità è un qualcosa che appunto ci mette del tempo, ha fatto un giro di ha fatto un grande giro di feste, di presentazioni, c'è molta attenzione, no, rispetto a questo tema. Sì, il titolo fa riferimento, mi sembra, a un certo senso comune, che neanche però è ormai più così diffuso. Sì, appunto il tabù del essere sbagliata se decidi di non essere madre. Il titolo in realtà è una frase che dice una delle protagoniste, che insomma rivela che si è sempre sentita sbagliata, sua madre l'ha fatta sempre sentire sbagliata, e anche per questo fatto di non avere figli. È una cosa molto comune, molte delle protagoniste raccontano che ogni volta che, insomma, quando si arriva a una certa età, questo film è soprattutto un film dove le protagoniste hanno una mezza età, diciamo così, per essere vaghi, e quindi è un'età in cui comunque la scelta l'hai fatta, o se non è successo, non è successo, e non puoi tornare indietro. E quindi quando tu, insomma, dichiari di non avere figli, c'è sempre un certo sconcerto, no, di fronte a questo, e quindi lo sconcerto aumenta se tu dici che i figli non li hai voluti, perché è un po' inaccettabile. né in una società come la nostra, che è una società poi comunque, se vuoi, no, matriarcale, fatta in un certo modo, dove procreare è un qualcosa di, non so se obbligatorio, ma sicuramente naturale. Sì. Allora, sull'età ci hai detto, Elisabetta, volevo chiederti quante sono state le tue interlocutrici e se è stato anche un campione, chiamiamolo così, trasversale per classi sociali. Allora, le nostre interlocutrici, allora, intanto il film è girato in parte a Roma e in parte a Modena, perché Daria di Spilamberto di Modena, Sì. quindi abbiamo girato alcune delle, non le chiamerei proprio interviste, perché in realtà, e questo, cioè, le donne si raccolgono, alcune sono amiche tra loro, altre non si conoscono, e piuttosto sono, è una situazione conviviale dove di fronte a del cibo, e questa è stata un'idea di Daria, insomma, di riunirle in questo modo, loro conversano fra loro. Io e Dario siamo intervenute poco, solo a volte per fare dare degli input, no? E in realtà sono delle conversazioni, ecco, ha più l'aspetto della conversazione che dell'intervista. Il campione è trasversale, anche se insomma sono più che altro, tu mi chiedi se è un campione trasversale per età o No, no, l'età ce l'avevi detto, mezza per età più o lavoro. meno, per classe sociale più o meno. Sì, è un campione trasversale, quindi che prende una serie di professionalità, di preparazioni diverse. Sì. Anche rispetto alla provenienza geografica, la città rispetto alla provincia, insomma, così. Modena e Roma, Sì. Spilamberto e insomma Modena e dintorni e Roma, quindi sicuramente è trasversale. Il numero, loro sono una, sembra una ventina, tra i 20 e 30. Tra l'altro il film, essendo girato nel tempo, ha una struttura che ha una sua struttura, nel senso che poi alcune di queste protagoniste le rivediamo dopo un po' di tempo e sappiamo che cosa ne è stato della loro vita, perché il film in realtà partiva dal voler seguire delle storie in particolare, poi invece abbiamo scelto di dare un aspetto un po' più collettivo, no? Anche perché questa qui, questa generazione, è la generazione dell'autocoscienza, delle battaglie femminili, eccetera, e quindi c'è un voler parlare, anche se su questo tema parecchie delle protagoniste raccontano di non essersi mai veramente rivelate, interrogate, cioè ci sono delle cose, la cosa bella, la fragranza dell'arrivare lì per lì a darsi delle risposte a domande che magari uno non ha mai avuto il coraggio di farsi. D'altra parte, come è successo anche a me, perché anche io fino a un certo punto ho vissuto questa scelta, perché la mia è stata una scelta in maniera naturale, e a un certo punto mi sono fatta delle domande. Per me questo film è stato catartico, perché non mi ha dato le risposte, ma mi ha sollevato altre domande. Sì. Elisabetta, c'è un sito internet, una pagina Facebook dedicata al documentario? C'è una pagina Facebook che si chiama appunto Sbagliate e quindi lì c'è tutto quello che è uscito, ci sono tutta una serie di interventi, non è una pagina aperta, però sì, esiste questa pagina che si chiama Sbagliate, facilissima da trovare. Benissimo, ricordiamo la proiezione all'Apollo 11 a Roma l'8 marzo. Elisabetta, io ti ringrazio, un abbraccio e alla prossima.